La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Cambiare la legge sulle adozioni internazionali, anche perché se continua così si rischia di azzerarle. Ed è il problema dei tempi lunghi, eterni direi, per adottare un bambino. Per chi ha la fortuna di passare e ottenere l'idoneità, parliamo ormai di 3-4 anni. Tutti i paesi tradizionalmente d'origine stanno diventando capaci di assorbire la richiesta di famiglia da parte dei loro bambini. La legge prevede un'età minima di 18 anni, un'età massima di 45. Questo non vuol dire che chi ha più di 45 anni non può adottare, ma che la differenza massima tra un bambino, tra l'età del bambino e l'età della coppia è di 45 anni. Quindi in molti paesi c'è una crescita. Entriamo nello specifico di un problema che probabilmente non tutti sentono, ma visto che questa settimana abbiamo scelto come scelta di Radio 24 avere un senso comunque di punto di vista particolare, situazioni non diffuse al 100%, ma molto sentite, diretti protagonisti comunque nel campo del sociale, nel campo delle emergenze che non sono solamente quelle più superficiali. Oggi vogliamo parlare delle adozioni internazionali. In sé il principio è un principio che sembra perfetto, non dovrebbe fare una piega. Esiste un paese in cui le coppie fanno più difficilmente dei figli, hanno desiderio comunque di allevare dei ragazzi, di dare ai ragazzi una prospettiva di vita. Esistono dei paesi in cui c'è un indice altissimo di infanzia abbandonata, di infanzia sofferente, di infanzia al di sotto dei limiti minimi di una vita dignitosa. Mettere queste due realtà in contatto e far sì che una piccolissima infinitesimale parte dell'infanzia abbandonata e reietta possa avere una chance di vita in un paese con tutti i limiti che possono esserci in una situazione di crisi, comunque può garantire una vita dignitosa, sembrerebbe di compiere l'equazione perfetta. Però pare che ci siano grosse difficoltà. Il nostro è uno dei paesi che maggiormente disposto e disponibile ad accogliere ragazzi per adozioni internazionali, quindi che vengono da altri paesi, è uno dei paesi allo stesso tempo in cui c'è un iter burocratico legislativo complicatissimo che sembra fatto apposta per scoraggiare questa iniziativa. Beh, di questo oggi vogliamo parlare. 800 24 00 24. Le coppie che hanno adottato minori stranieri al 31 dicembre 2012 sono state 2.469, con una media di 206 coppie al mese. Il maggior numero di coppie adottive, anche nel 2011, risiede in Lombardia. Seguono il Lazio, la Toscana, 241 coppie, pari al 9,8% del totale, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia-Romagna. Le coppie che hanno adottato nell'anno 2012 conservano le caratteristiche già segnalate nell'anno 2011, prevalenza di coniugi con titolo di studio medio superiore, appartenenti a categorie lavorative impiegatizie delle libere professioni e degli insegnanti, con l'accentuazione delle tendenze in atto già negli anni precedenti. Nel periodo gennaio-dicembre 2012 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 3.106 minori provenienti da 55 paesi. Prevedevo che qualcuno mi scrivesse: sta diventando di una noia mortale, che palle. Ma uno può prendersi a pieno diritto il privilegio di trattare per una settimana argomenti che non siano la qualità del pelo femminile e cose simili, che so che mandano in visibilio il mio pubblico. Stefano Bernardi, buongiorno. Buongiorno. Stefano Bernardi è direttore dell'associazione Enzo B di Torino, che si occupa della tutela di bambini e adolescenti in situazioni di disagio sociale e che si occupa anche di assistere le coppie che vogliono fare adozioni internazionali. Esatto. Ma è vero che in Italia ci sarebbe una grande disponibilità ad adottare ragazzi che vengono da altri paesi? Beh, questo lo dicono i numeri, ma lo dice anche, se vogliamo, un sentire comune. L'idea di famiglia in Italia è un qualcosa che sta alla base della società. La famiglia si costruisce attraverso i figli, attraverso i figli si costruisce il futuro della società stessa. Questo è un dato storico che viene, avete rappresentato dei numeri in questo servizio di introduzione. C'è effettivamente un calo quest'anno, ma sono comunque numeri che portano l'Italia a essere il secondo paese al mondo per bambini adottati ogni anno in termini assoluti, ma se consideriamo la proporzione con la popolazione, il primo è gli Stati Uniti, siamo di gran lunga i primi come propensione, calcolando la differenza ovviamente di popolazione residente. Quindi la coppia italiana è la prima nel mondo disponibile ad assumere ragazze che vengono da altri paesi. Questo è un dato confortante, perché va a cozzare con tutta l'idea che esista un pregiudizio di fondo, una sorta di chiusura, una difficoltà a comprendere ed accettare persone diverse. No, quali sono i paesi, diciamo, più interessati da questo desiderio? Poi vediamo quali sono le difficoltà a esprimerlo e realizzarlo. Anche sul fronte della presenza nei paesi di cosiddetta origine, nel gergo delle adozioni, così si qualificano i paesi da cui arrivano i bambini, l'Italia invece è un paese di accoglienza, e anche il numero, dicevo, dei paesi di origine in cui l'Italia è presente, si diceva nel 2012 55 paesi sono quelli da cui arrivano questi bambini, la dice anche di una, diciamo, posso usare un termine un po' brutale per il tema che stiamo trattando, una famiglia made in Italy che è veramente diffusa nel mondo. Questo è un altro dato che caratterizza l'Italia. Altri paesi, Francia, Spagna, gli stessi Stati Uniti, non sono così presenti in giro per il mondo. Poi certamente nelle classifiche c'è una, se vogliamo stare agli ari di numeri, ci sono delle prevalenze, sicuramente l'est europeo, con la Russia in testa, è ancora un paese dai grandi numeri, ma ormai ci sono delle tendenze consolidate che vedono ad esempio quello che era un fanalino di coda fino a 5-6 anni fa, che è l'Africa in generale, avere una costante tendenza all'aumento, con ormai centinaia di bambini che arrivano da quel paese, da quei paesi. Ecco, sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, anzi di lunedì, è uscito un pezzo che è abbastanza allarmante. Cioè, nel 2012 un milione di bambini venduti, cioè i dati UNICEF sono che in Italia a causa della crisi sono diminuite le adozioni legali, e poi, come lei ci starà spiegando, ci sei un iter molto complicato, quindi è in ascesa il mercato nero, piccoli di cui sono state perse le tracce. Corrisponde a quello che lei sa o che lei ha sentito dire, di cui lei ha qualche dato oggettivo? Guardi, due cose in sintesi. Sentivo, credo di aver riconosciuto la voce della dottoressa Bacchetta, che era vicepresidente della Commissione delle Adozioni Internazionali, nella copertina che avete fatto, che diceva molti paesi, ormai la tendenza è che molti paesi di origine riescano a essere autosufficienti nel assistere i bambini che sono in difficoltà nel loro paese. Ecco, io non so se stiamo parlando del pianeta Terra, se è così è un'informazione leggermente difforme da quello che la realtà ci dice in tutti i nostri, cioè, dice, non li danno più perché ormai se ne occupano loro, ecco, questa sarebbe la sintesi. Ma non è così, perché purtroppo, quindi in realtà li vendono sotto banco, questo vorrebbe essere la... Ma guardi, il vendere sotto banco in realtà va visto, il titolo era suggestivo, tra l'altro non è solo un articolo ma tutto uno speciale che ha fatto il Fatto Quotidiano, molto interessante, approfondito, e il termine ovviamente è suggestivo, vendere. Io le do solo questo dato: in alcuni, parliamo del continente africano ma vale per quasi tutti i continenti come l'Asia, Sud America eccetera, ma in Africa il 60% dei bambini non è registrato all'anagrafe. Allora, quando parliamo di vendere, dove ci si immagina un discorso di compravendita proprio delle più becere, in realtà stiamo parlando di bambini fantasma, il cui destino su un diritto fondamentale come quello di essere banalmente possessori di un nome e di diritti non esiste dall'origine, quindi che se ne perdano le tracce già solo per questo motivo è facilissimo. Quindi però mi scusi Bernardi, solo per capire, il bambino africano che lei in questo momento ha descritto, che non è iscritto all'anagrafe, quindi è un fantasma, quindi in teoria, sapendo che esiste una capacità e una disponibilità, un desiderio di accoglienza, una famiglia potrebbe, non lo dico con cinismo, ma semplicemente vediamola nella migliore delle ipotesi, per assicurare al proprio figlio, che avrebbe una vita disperata se mai avesse una vita possibile, un avvenire migliore, decide di dare questo figlio a qualcuno che lo vuole prendere. Per non far passare troppo tempo, per non incorrere in queste lungaggini, in teoria si potrebbe presentare un mediatore che dice: guarda, io ho una famiglia a cui poter piazzare questo figlio. Sarebbe in teoria possibile prendere un bambino senza passare per le maglie della legge che ci impone un periodo di prova? Adesso lei ci dirà esattamente qual è l'iter. No, per una famiglia italiana è assolutamente impossibile. Ogni tanto esce su notizie di cronaca anche in Italia di bambini venduti, ma stiamo parlando di situazioni che non hanno poi la possibilità di essere non dei fantasmi anche in Italia. L'Italia ha fatto una scelta aderendo, come ormai tutti i grandi paesi occidentali, alla Convenzione dell'AIA del 93, che è quella che regola tra i paesi di accoglienza di origine e le adozioni internazionali, ha fatto una scelta non obbligatoria dal punto di vista della Convenzione dell'AIA, di rendere invece obbligatorio che le famiglie vengano assistite da delle associazioni. Quindi il cosiddetto fai da te, che tecnicamente era possibile fino a circa l'anno 2000, da allora non è più possibile. Una coppia non si può recare all'estero e fare cose che non siano sotto la lente di ingrandimento di un ente che a sua volta è soggetta a una strettissima vigilanza degli organismi italiani e anche ovviamente del paese di origine. Questo è giusto averlo definito. Allora, Luciano Coluccia, buongiorno. Buongiorno. Luciano Coluccia, lei ha adottato 3 bambini brasiliani. Ce lo spiega lei qual è l'iter per adottare un bambino attraverso appunto il meccanismo dell'adozione internazionale? Sì, l'iter, diciamo, per un tratto iniziale è comune sia per l'adozione nazionale che internazionale, e poi dopo si divarica, per cui per l'internazionale a un certo momento si fa il giro delle associazioni enti accreditati presso il Ministero, cercando alcune caratteristiche o requisiti secondo i propri desideri, che poi vanno comunque modulati e tarati, insomma, nel corso del tempo. Una volta che si dà il mandato ad un ente, si inizia un'altra fase abbastanza lunga, che è quella della. Quindi in teoria esiste, anche se può sembrare brutale, una possibilità di scelta: lo voglio africano, lo voglio asiatico, lo voglio. Diciamo che sì, diciamo le aspettative dei desideri come di ogni genitore, sì. Beh, certo, lecito, d'altronde uno si prende un onere non indifferente. Sì, infatti, cioè, la tendenza è quella, ad esempio, di cercare bambini sempre più piccoli, no? È logico. Vabbè, sì. Non è stato il nostro caso, comunque, insomma, diciamo, la tendenza è quella, ovviamente. Ecco, sull'età non si può fare nessun tipo di scelta? No, diciamo che si dà una preferenza per delle fasce d'età. Noi ad esempio la nostra esperienza la demmo per una fascia d'età compresa tra 0 e 6 anni, poi invece abbiamo adottato 3 bambini di cui la più grande aveva 10 anni, 6 anni il secondo e la più piccola 3, quindi poi alla fine. Diciamo, nella più estrema delle ipotesi cosa potrebbe capitare? Che arriva un 14enne? Beh, ho sentito e conosco storie anche sì di bambini che arrivano in adolescenza, però comunque sono scelte già in qualche modo volute dalla coppia, dai genitori, perché comporta una storia alle spalle molto difficile da gestire, prima che si crea l'attaccamento, l'affiatamento in famiglia, insomma lì sono storie abbastanza. Certo, io capisco, è un argomento molto delicato, perché si entra in delle sfere personali. Io capisco il desiderio di una coppia di fare l'esperienza dell'allevamento di un essere umano. Certo. Ti arriva una persona ormai già adolescente, quindi già formata. È un altro tipo di problemi, è sempre un'espressione della paternità o della maternità, ma su un altro piano. Gestisci un uomo, un adulto, un adolescente con tutti i problemi. Non hai quella fase compensativa di piacere di allevamento di un bambino. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, Paolo Di Lodi, 48 anni, anche mia moglie 48 anni. Nel 2006 abbiamo fatto domanda di adozione nazionale e internazionale. Il percorso è stato difficilissimo con gli operatori. Mi spieghi perché è difficile? Perché ancora non è venuto fuori perché questa difficoltà. Allora, la legge stabilisce 4 mesi per i colloqui, sono durati 8 mesi, qualche problema di incomprensione con gli operatori. I colloqui dove si fanno? Nel paese d'origine del ragazzo? No, allora, per il percorso è identico, nazionale e internazionale, i percorsi si fanno presso la propria ASL di competenza. Si parla. Il tribunale incarica l'ASL di competenza di svolgere un'indagine. E cosa avviene in questi colloqui? Di tutto, dove sei nato, perché sei nato, quando sei nato, e ti chiedono di tutto della tua vita, dicono che lo scopo non è una valutazione, ma io ritengo sia giusta da parte ma degli operatori una valutazione. Okay. E chi è che fa chi fa questo tipo di... Un assistente sociale o uno psicologo normalmente. Noi siamo una delle coppie che ha avuto seri problemi, tanto è vero che abbiamo avuto una relazione molto negativa e per poi, siccome eravamo motivati, abbiamo fatto una... Perché la relazione negativa? Cosa avete fatto? Ma dunque, non posso raccontare tutta la mia vita. No, vabbè, no, velocemente. Gli operatori c'erano delle debolezze e un bisogno assoluto di figli, come se fosse una cosa spasmodica. Noi non ci riconoscevamo in questo ritratto e allora abbiamo fatto un ricorso a nostre spese. Cito per dire che il ricorso in corte d'appello a noi è costato 5.000 euro in avvocati e pratiche, e però alla fine abbiamo avuto questa idoneità, A seguito di questa idoneità abbiamo avuto qualche vincolo sul paese di destinazione dei nostri futuri figli e abbiamo scelto, fra virgolette, un ente che adottava solo in Polonia. Devo dire che oggi io sono un padre felicissimo, i bambini sono con noi da 3 anni, avevano 7 e 10 anni quando li abbiamo adottati, oggi ne hanno 10 e 13. Quindi alla fine vi è andata abbastanza bene, avete resistito, ecco. Esatto. Siete riusciti a farvi cancellare l'onta del desiderio compulsivo e avete avuto i bambini polacchi che alla fondo ci somigliano pure, quindi sono anche più facili da gestire. Ecco. Non è stata una scelta diretta, preciso una cosa, sono assolutamente convinto che la legge italiana sia ottima e anche l'iter sia ottimo. Purtroppo, come tutte le leggi italiane e gli iter, ci si scontra con problemi burocratici e a volte, vabbè, questo da parte mia, con dei soggetti che magari non sono proprio così. Mi dico una cosa, Paolo, ma uno ha l'impressione che la propria felicità sia in mano a un assistente sociale che ti guarda, ti valuta, dice guarda, se gli sto antipatico magari individuo qualcosa in me e non mi dà la possibilità di fare questa scelta. Ecco, diciamo che tutti affrontano questi colloqui con ansia e è giustificata già dopo il primo incontro, poi dipende dagli operatori che si incontrano. Essere messi sotto esame passati i 30 anni non è facile, diciamo. Sono molto molto molto pesanti, questo lo so da altre coppie che hanno avuto il nostro stesso problema e non hanno avuto l'idoneità e non hanno avuto il coraggio poi di riprovarci. Pesanti perché entrano anche nella sfera personale, intima. Ma assolutamente sì, e nel momento in cui uno invece poi non dà risposta a certe domande risulta essere reticente. Mi faccio un esempio, so che voglio capire com'è questo colloquio. La domanda è perché... La cosa più fastidiosa che vi hanno domandato. Beh, ovviamente ti chiedono come mai non hai avuto figli, problemi di sterilità, lui, lei, avete elaborato il lutto di non aver avuto figli, come avete compensato, siete sicuri che non state cercando a tutti i costi una compensazione per questo, il rapporto con i genitori, avete un genitore, se il rapporto sereno, ma tutti gli aspetti della vita. E ma uno, vi dico, fra l'altro il nostro problema è di essere stati talmente chiari e trasparenti di esserci prestati poi alle valutazioni, vi dico, abbiamo affrontato con assoluta trasparenza, siamo una coppia che ha avuto precedenze e bambini in affido in precedenza. Cinicamente avrebbe da pensare, ci vorrebbe una specie di scuola guida, fare un training preventivo come per i colloqui di lavoro, per sapere le risposte giuste, per evitare di cadere in queste trappole. Fermiamoci un attimo, mandiamo una scheda così vediamo quali sono appunto le modalità che vengono chieste per l'idoneità a adottare un bambino. Le caratteristiche previste dalla legge sono quelle formali, cioè il matrimonio, oppure i 3 anni minimi di convivenza stabile. E prevede la salute, una buona salute psicofisica, la pulizia del calzellario giudiziario, chiaramente, e poi tutte una serie di caratteristiche psicologiche, di personalità, le caratteristiche della coppia, la motivazione, le attitudini a prendersi cura di questo bambino, anche una capacità economica di provvedere a questo bambino e una capacità di prendersi carico di un bambino non nato da sé, che vi è tutte le valutazioni che vengono fatte nel corso del lavoro con la coppia. Dopo l'idoneità la coppia dovrà utilizzare questo certificato, questo decreto di idoneità e affidarlo ad uno dei tanti enti autorizzati presenti sul territorio, che è preposto alla intermediazione con il paese straniero per la individuazione ed eventualmente l'abbinamento con un minore straniero che poi dovrà rientrare in Italia attraverso sempre questo... Pierluigi, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Siamo qua. Io sono intervengo a trasmissione in corso, ho sentito che parlavate di un argomento che mi tocca molto da vicino ed è recentissimo. Io sono diventato papà adottivo da un paio d'anni di un bimbo proveniente dal Burkina Faso. Ho una figlia biologica più grande di 15 anni, lui oggi, mio figlio ne ha 7, quindi quando l'ho adottato aveva 5 anni, e ho impiegato 5 anni per diventare papà adottivo, considerato nei 5 anni da quando io ho presentato la domanda al Tribunale dei Minori in Italia, quindi ho fatto sia la domanda per la nazionale e l'internazionale. Mi sono appoggiato a una delle più grosse associazioni del settore per intraprendere l'iter poi di avvicinamento alla fase finale. Mi sono trovato benissimo con questa associazione, secondo me è una delle associazioni più serie in assoluto, ne ho valutate 3 o 4. Certo, c'è da dire una cosa per Luigi, lei il desiderio di avere il secondo figlio lo ha espresso quando la sua prima figlia aveva 10 anni, voleva dargli un fratellino quando era ancora bambina. Gli è arrivato che lei è già una ragazza, è diverso rispetto a quello che lei aveva programmato, perlomeno quello che era il suo desiderio. Sì, no, volevo soltanto, io mi ho telefonato perché per dire solo questo, premesso che una volta tanto secondo me possiamo essere orgogliosi del nostro paese, perché credo che in Italia sia uno dei paesi dove ci siano le regole e le leggi migliori o tra le migliori per quanto riguarda appunto le problematiche legate alle adozioni. Ho qualche riserva. Allora, è vero che ci sono state fatte negli anni una grossa scrematura delle associazioni, perché una volta, non voglio dire che uno al mattino si alzava e si inventava di diventare associazione per adottare, ma quasi, insomma, quindi è stata fatta una serissima scrematura, però è altrettanto vero che ancora oggi ci sono delle situazioni, tra virgolette, un po' strane, nel senso che vi sono situazioni in cui viene garantita l'adozione, quindi il risultato finale, in meno di un anno. Questo glielo dico a ragion veduta, perché mia cugina ha adottato in meno di un anno, in 8 mesi, un bambino proveniente da un paese della Russia. Okay. E questo come avviene? Rientra nell'inchiesta che ha fatto il Fatto Quotidiano, che ci sono dei canali non ufficiali per ottenere. Allora, scusi, Luigi, non se ne vada, siccome devo dare la linea all'informazione della borsa. Resti in linea, questo è l'aspetto che mi interessava toccare, non per amore di scabrosità, ma siccome se ne parla e se ne sa e se ne dice che esistono delle vie brevi per ottenere questo, vorrei che lei mi aiutasse a capire quali possono essere, se ci sono e come vengono percorse. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, parliamo di adozioni internazionali. Naturalmente puntuale la domanda che mi è stata fatta, scrive un ascoltatore: con tutti i bambini che abbiamo in Italia, perché dobbiamo andare all'estero? Stefano Bernardi, direttore dell'associazione Enzo B di Torino, che è una di quelle che si occupa di più di bambini, la tutela dei bambini adolescenti in situazioni di disagio sociale, ma assiste anche le coppie che vogliono fare adozioni internazionali. Sembra una domanda banale, ma come si risponde? Perché con tanti bambini che sono in Italia si vanno a cercare bambini attraverso le adozioni internazionali? Ma guarda, è un discorso difficilissimo da affrontare con una battuta, ma dove sono tutti questi bambini in Italia sarebbe forse la domanda con cui replicare. No, mi risulta che le adozioni nazionali, non ho sotto mano i dati del 2012, siano assolutamente interessati da un numero enorme di coppie che danno la disponibilità, ma si limitano a credo un numero intorno alle 500 all'anno, a fronte di disponibilità di circa 8-9 volte questo numero come famiglie che si danno. Diciamoci la verità, anche se per qualcuno forse non è proprio un problema: in Italia si fanno sempre meno figli, le coppie italiane sono sempre meno fisiologicamente capaci a fare figli. Non dico sia una colpa, ma è così. Questo veramente forse dei convegni, non basta una trasmissione. Tenga conto che, diciamola brutalmente, l'infertilità è un fenomeno di tutto il mondo occidentale, condizionato da tantissimi fattori. Io cito solo un aneddoto che è storia quotidiana per chi vive il mondo delle adozioni. All'adozione internazionale spesso si rivolgono famiglie che hanno effettivamente incontrato difficoltà ad avere, non come alcune storie che abbiamo sentito raccontare da Paolo, Pierluigi o il signor Colucci, ma che non avevano figli biologici e hanno quindi scelto l'adozione per coronare il proprio progetto di genitorialità, e poi quando arrivano all'incontro col bambino adottivo scatta qualcosa per cui inizia magari anche una gravidanza naturale. Questo ci dice come le cose sono molto collegate tra corpo e mente, però questo che lei diceva come tasso di natalità è uno degli elementi oggettivi. Questa non è un'opinione, sono statistiche, non è così, cioè dove sono tutti questi bambini italiani non accolti? Poi che si possa fare una riflessione sul fatto che tutte le norme internazionali e quella nazionale ancora di più dica che l'interesse superiore da proteggere è quello del minore, e che poi in concreto ci sia un'enorme difficoltà, anche qui uso un termine brutale, a togliere i bambini a delle famiglie quando ci sono delle situazioni di difficoltà, questo è un fatto che produce in molti casi personali, individuali, delle situazioni drammatiche, cioè che invece che togliere precocemente da una situazione di genitorialità insufficiente il minore e inserire in una famiglia accogliente, in Italia si prolungano spessissimo delle situazioni che poi diventano patologiche. Abbiamo visto nelle cronache di un paio di mesi fa quella storia atroce e disgraziata del bambino strappato dalle mani della zia urlante, dal padre cattivo, è diventato un caso televisivo, visto che noi abbiamo tanto cuore quando parliamo di questi fatti, ma molte volte le scelte razionali, anche se dolorose, sono le più difficili da percorrere. Devo chiudere con Pierluigi. Pierluigi, l'avevo lasciato sospeso, mi stava raccontando una storia. Sì, no, le stavo dicendo, lei mi diceva, mi chiedeva come mai. Ma allora, guardi, le rispondo sia sulla base delle... Cioè lei ha detto che esiste un iter, ha saputo che esiste un iter accelerato per ottenere, diciamo, l'adozione internazionale. Allora, il discorso secondo me è anche questo, ma un po' per l'esperienza mia, ma un po' anche per quello che mi è stato raccontato dalle associazioni. Allora, le dico, siccome la mia associazione, per esempio, ha rifiutato tassativamente di avere rapporti con i paesi dell'est blocco sovietico, per capirci. Io credo a questo punto, e perché in Burkina, pur essendo un paese di una povertà estrema, vi sono delle leggi che tutelano i diritti dei minori molto, ma molto ferre, molto, molto precise. E qual è il motivo del rifiuto dei bambini che vengono dall'est? C'è un business troppo preponderante? Allora, sono le leggi locali, è un problema culturale, secondo me. Vi sono leggi locali che non sono delle grandi leggi, mettiamole così, ci sono situazioni molto pesanti, molto particolari, che fanno sì che in questi paesi cioè non c'è una tutela nel vero senso della parola per quello che riguarda il minore, mi capisce? Sì. Quindi, voglio dire, di conseguenza diventa tutto un attimino più preso, diciamo così, all'acqua di rose. Ma poi mi faccio un esempio pratico. Ma l'esempio pratico? Che esistono delle organizzazioni che gestiscono i bambini. Allora, vi sono poi dei referenti locali. La mia associazione ha i suoi referenti in Burkina e tutti quanti lavorano in team e sono, diciamo così, formati secondo un unico sistema. A ciò aggiunga che poi le leggi locali sono fatte in un determinato modo. E invece? Invece in altri paesi, come possono essere appunto i paesi dell'est, così come le sto dicendo, non funziona propriamente così. Probabilmente l'associazione può anche essere un'associazione, diciamo così, effettivamente seria al 100% in tutti i... L'interfaccia locale non è altrettanto affidabile. L'interfaccia locale non è altrettanto, mi capisco. È molto chiaro, Pierluigi, molto chiaro. Franca, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io ho adottato nel 2006 un bimbo asiatico cambogiano. E volevo invece sottolineare che nel nostro caso l'iter è stato molto breve, perché diciamo che in 6 mesi noi scelto l'ente e appoggiatici all'ente e data disponibilità all'ente, nel giro dei 6 mesi siamo stati chiamati e ci siamo recati in Cambogia a prendere nostro figlio, che peraltro aveva 2 anni, per cui non era neanche un bimbo, diciamo, in età scolare o in età, insomma, adolescenziale, che mi risulta sia molto più semplice. Era necessario fare l'iter che è necessario fare oggi? Sì, no, l'iter è sempre quello, tant'è che noi abbiamo iniziato all'inizio del 2005 e terminato in 16 mesi l'iter in Italia, con assistente sociale, psicologa e per ultimo il tribunale dei minori, il giudice del tribunale dei minori, che è quello che poi rilascia alla fine l'idoneità al 100%. Ecco, la patente di libera, diciamo, adozione. Così, ecco. Con questa noi ci siamo rivolte a più enti, abbiamo, diciamo, scandagliato più enti, abbiamo scelto quello che più ci dava affidamento, fiducia, e ci siamo appoggiati a questo ente, che peraltro è un ente molto, molto grosso, che tratta tanti paesi. Al momento diciamo della nostra adozione c'era un ventaglio di paesi a disposizione, altri erano, diciamo, al momento bloccati, e c'erano alcuni paesi che avevano un iter un pochino più lungo, ma perché magari una lista d'attesa un po' più lunga, altri paesi che invece avevano cominciato a adottare da un paio d'anni che avevano invece una lista di attesa più corta. Quindi, Franca, la scelta molte volte si fa in base alle difficoltà da affrontare. In certi paesi si ottiene più facilmente, quindi uno opta per la Cambogia più facilmente. Allora, quando abbiamo adottato noi nel 2006, diciamo che la Cambogia era partita da un paio d'anni con le adozioni, quindi era ancora un canale abbastanza veloce. Adesso, in questo momento, ad esempio, la Cambogia è ferma con le adozioni, quindi chi anche noi, che poi abbiamo resistito, volesse, chi ha adottato un primo cambogiano e volesse ritornare ad adottare il secondo in quel paese, in questo momento purtroppo non lo può fare. Quindi abbiamo capito, abbiamo capito che molte volte sono delle circostanze date dagli equilibri, dalle situazioni politiche che rendono più o meno facile. Questo sicuramente. Io le ripeto, nel nostro caso noi non abbiamo seguito nessun canale preferenziale, avevamo dato disponibilità che poi comunque è abbastanza obbligatoria da 0 a 6 anni e poi dipende anche un po' dall'età della coppia, diciamo, se una coppia già sulla cinquantina d'anni non può dare, tendenzialmente si cerca di non dargli un bambino troppo piccolo, troppo piccolo, diciamo. E quindi noi non sapevamo assolutamente né il sesso del bambino né l'età, poteva arrivare di 6 anni, di 2, di 1, di 5, e né quanto tempo ci avremmo messo. Questo è anche giusto che non ci sia proprio il catalogo, dell'IKEA per scegliersi il bambino, c'è adesso un margine. La ringrazio, Franca. Giancarlo. Buongiorno. A proposito di quello che c'è l'ascoltatore prima, sì. Sono Giancarlo? Sì, Giancarlo. L'ascoltatore prima ha detto che ci sono dei paesi, ci sono particolari difficoltà che lui non ritiene molto attendibili per l'adozione internazionale. In realtà lei ha adottato una bambina ucraina. Esatto. In Ucraina diciamo che le leggi ci sono, in effetti ci sono. Purtroppo c'è da dire che a livello locale poi ci sono le persone che purtroppo le fanno rispettare solo in parte. Ecco, lei mi ribadisce esattamente quello che ha detto l'ascoltatore prima. Qual è il problema? Il problema praticamente è, in buona sostanza, spesso il referente delle associazioni a cui ci si affida in Italia per fare i corsi propedeutici e poi per essere affiancati per l'affiancamento al paese di dove si andrà ad adottare, questo referente che si trova in terra ucraina, in questo caso specifico, io parlo poi praticamente del nostro ente a cui ci siamo affidati, e non è esattamente quello che professionalmente uno si vuole. Ma mi faccia capire, faccia un esempio. Gli si presenta una persona, sostanza, qual è il problema? Cosa gli manca? In buona sostanza, questo referente tratta la cosa a livello commerciale, cioè per quello che può essere di più il suo interesse immediato. Come se fosse un mercante di bestiame, una cosa del genere. Diciamo che lo possiamo rendere paritetico. C'è molto assenteismo, per cui spesso la coppia deve fare il fai da te poi su un paese, nel paese straniero, in questo caso nell'Ucraina, oltretutto con i nostri problemi di lingua, cirillico non è esattamente una lingua latina. Ecco, però al di là dell'aspetto, diciamo, dell'aspetto dell'impasse emotivo, che non è una persona che tratta l'argomento con la delicatezza necessaria, esiste anche una sorta di sottobosco che le crea problemi avere a che fare con questi paesi? Beh, certo, purtroppo anche a livello magistratura vengono chieste espressamente, chiamiamole, delle piccole tangenti per poter... Ecco, che vengono chieste mazzette, questo è il problema. Esatto. E purtroppo è un fenomeno che abbiamo riscontrato più e più volte. No, perché ci abbiamo girato intorno alla fine. Cioè, in certi paesi vengono chieste mazzette per adottare. Questo fa, al di fuori, naturalmente, dell'attendibilità e della rispettabilità dell'ente che vi ci accompagna. Vediamo velocemente su questa cosa, ci può dire qualcosa Stefano Bernardi. È una voce che rimane nell'ambito della diceria o ci sono delle oggettivi riscontri a questa cosa? Ma la storia cammina sulle gambe degli uomini, quindi sarebbe come generalizzare delle categorie dentro a delle vicende che poi sono individualmente personali. Io direi questo, le adozioni fatte dagli enti italiani sono passate e vengono passate a un vaglio, io lo dico conoscendo una realtà che riguarda circa una sessantina di enti operativi ormai da alcuni anche da 20 anni, come quelli che sono stati citati, il signor Paolo che ha adottato col CHAI, la signora Franca che ha adottata col CIFA, enti importanti e notevoli come dimensioni, e tutte le adozioni singolarmente, non come categorie o come gruppi, vengono valutate dalla Commissione per l'adozione internazionale, o sono corrette o non vengono autorizzate, non viene autorizzato l'ingresso del bambino in Italia, perché non è che uno poi prende l'aereo e porta il bambino, c'è tutto un iter anche di verifica e di controllo che fa sì che quel documento e quella procedura realizzata, sarà in Burkina Faso, in Polonia, in Ucraina, dove vogliamo, in Cambogia, poi deve essere valutata prima dalla Commissione e poi dal Tribunale dei Minori che in Italia recepisce la sentenza. Quindi io direi che dal punto di vista formale e dal punto di vista anche sostanziale le cose sono assolutamente blindate, soprattutto per la scelta italiana di non consentire il fai da te, che non è una scelta generalizzata. La Francia tuttora consente alle famiglie di muoversi da sola nei paesi. Diciamo, ci sono tutte le garanzie possibili. Poi logicamente io non posso fare a meno però di registrare. Nessuno chiede delle mazzette, questo è un discorso un po' eccessivo. No, ma ho detto lì. Però è un dato di fatto che due ascoltatori hanno già telefonato, cioè in certi paesi comunque si ha a che fare poi dopo con referenti locali che non sono proprio il massimo della professionalità, data anche la delicatezza dell'argomento. Melog, la realtà condivisa. 800240024, parliamo di adozioni internazionali. Abbiamo al telefono Diego. Diego, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei ha una situazione personale legata a questo fenomeno, ha adottato anche lei un bambino. Vediamo di capire qual è stato il suo iter, che li stiamo cercando di raccontare per fare una tipologia completa. C'è chi dice che ha avuto più difficoltà, chi dice che ha avuto situazioni personali limacciose, non oggettivamente classificabili, però l'ha rilevato, altri sono stati felicissimi. Il suo caso com'è stato? Il mio caso è stato felicissimo. È vero che i tempi sono lunghi, bisognerebbe velocizzare ma non affrettare, sono due cose completamente diverse. E per quanto riguarda la mia coppia, la nostra coppia, noi abbiamo messo 4 anni, che è tanto, che è obiettivamente tanto e si potrebbe fare, secondo me, anche più veloce. Ma qual è secondo lei la differenza tra chi ci ha messo 6 mesi, chi ci ha messo 5 anni, chi ci ha messo 4 anni? Da cosa dipende? È vero che dipende anche dal caso, per caso, dal paese dove si sceglie o si finisce. Ma diciamo, i tempi di valutazione quali sono? Il tempo della valutazione per avere la patente, come abbiamo detto prima, quello quanto tempo richiede? Quello è 1 anno e mezzo. Un anno e mezzo, quindi ci vuole di base. Un anno e mezzo per fare i corsi e per avere l'idoneità. Quello è il minimo, la base, quella devono averla tutti, sì, su quello non ci più. Ecco, poi dopo ci si affida naturalmente alla fortuna di avere un paese disponibile in quel momento, ci sia una congiuntura particolare, certo, in cui certo, sia più facile. Come diceva lei prima, dipende dal paese stesso se ha dei problemi politici o meno, insomma. E poi dalla vera libertà, secondo me, in cui la coppia decide di adottare un bambino qualsiasi, che è poi quello giusto che ti arriva. Cioè uno meno ha esigenze specifiche, più è facile adottare. Ma non ci dovrebbero essere nemmeno le esigenze. Non ci dovrebbero nemmeno essere. Lei cosa aveva espresso come preferenza, diciamo? Noi abbiamo messo da 0 a 6 perché, essendo il primo figlio, volevamo fare il percorso adottivo, però senza limiti, anche arrivando poi nei paesi, agli orfanotrofi, quando si trovano quelli più grandi, ti viene veramente di dire faccio qualcosa anche per il ragazzo. Ecco, come funziona? Mi spiega Diego, perché voglio saperlo, poi vorrei allucinare l'operazione. Una volta che voi avete individuato, vi è stato detto qui c'è il ragazzo disponibile per voi, si va in un posto dove ce ne sono tanti. Certo, certo. Sì. Quindi ne vede anche altri. Poi dipende dai paesi, esatto, e si fanno anche 2 viaggi e non solo uno, quindi ci sono proprio motivi, emozioni forti. E comunque si va in un orfanotrofio in cui ci sono anche tanti altri bambini, alcuni di quelli tu sai che sono già stati abbinati e altri invece no. E uno naturalmente la scelta è stata già fatta, nel senso, certo non è che può cambiare, dice mi piace quello, prendo. Non si tratta proprio di scelta, si tratta di aver già avuto l'abbinamento e quello è tuo figlio. Però stringe il cuore vederne tanti in attesa. Esatto, stringe il cuore vedere quelli che probabilmente non sono nemmeno adottabili, quindi neanche dire adesso ricomincio subito perché cerco di portare il suo amichetto con noi. E non ce la fai. Ah, perché molte volte si interrompono anche delle amicizie, ci sono anche fratelli, possibilmente, capita. Esatto, sì. Quindi una volta lei prende un fratellino e l'altro rimane lì. E l'altro invece purtroppo rimane lì o lo scopri dopo che aveva il fratello, cioè magari non lo sai neanche. Naturalmente in teoria dovrebbe ricominciare l'iter da capo per ricongiungere i fratelli. Magari l'ente in questo caso so che può fare delle velocizzazioni, insomma, nel senso che cerca di usare tutti i termini legali. Una cosa mi interessa sapere, il ragazzo può continuare a avere dei legami con la famiglia d'origine, ormai la famiglia d'origine è dimenticata, cancellata? Assolutamente non c'è più. Non c'è più. A 18 anni non c'è più. E a 18 anni avrebbe diritto di... A 18 anni perché noi comunque diamo ogni, poi dipende anche sempre dai paesi, facciamo una relazione, ci viene fatta dal nostro ente insieme a noi una relazione di come sta andando l'adozione e viene mandata al paese d'origine, proprio perché i suoi genitori possano vedere che va tutto bene e soprattutto lo stato che in questo caso è l'Etiopia. Sentiamo Angelo. Angelo, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Allora, io volevo, la mia testimonianza era in merito alle difficoltà, soprattutto nei paesi dell'est. Io ho adottato due bimbi, uno circa 10 anni fa e l'altra bimba dopo 7 anni. Quali sono? Perché vede, questo è un argomento che con insistenza mi viene sottoposto questa mattina. Non voglio, se quello che sembra che vuol cercare per forza lo scabroso in tutto, però vorrei capire quali sono queste particolari difficoltà. Le particolari difficoltà sono, siccome il suo ospite diceva che formalmente le associazioni sono tutte pulite, diciamo, tra virgolette, questo sì, sicuramente sì, però poi, come diceva un altro ascoltatore, quando si è lì, io ho adottato in Ucraina, quando si è lì non è così, perché se tu non ti porti mazzette di soldi, e non sto scherzando, mazzette di soldi nascosti dentro i pantaloni, per poter affrontare determinate situazioni che si trovano in questi paesi dell'est, io in Ucraina, e tu non vai avanti. O perlomeno, siccome tu quando vai lì sei una gallina dalle uova d'oro, perché lei pensi le faccio solo un esempio, quando vai lì ti affittano la casa, ok? Questa casa appartiene a una famiglia che lì gli stipendi medi sono di circa 60, 70, 100 euro al mese. La famiglia se ne va da altri parenti, ti affittano la casa a 80 euro al giorno. Ancora ci sta, diciamo, perché è il prezzo ancora medio che pagherebbe comunque un appartamento, un bed and breakfast in Italia, quindi ancora ci sta, diciamo, andando avanti. Qual però è il punto? Per accelerare tutti gli iter burocratici, punto, signor Nicoletti, non posso dirle di più. Perché è così, cioè gli devi posare i soldi sul tavolo e andare, cercare di andare avanti. Perché ma sul tavolo di chi? Sul tavolo di chi? Del funzionario? Bravo. Perché loro tendono a tenerti più tempo possibile lì. Ma questa è una cosa risaputa, cioè voi famiglie che poi andate nei paesi dell'est? Sì, è risaputa perché, guardi, io sono andato 2 volte ovviamente. E ci sono andato veramente 8 volte, perché lei fa viaggi della speranza, perché ci va la prima volta, conosce il bambino, poi ritorna in Italia, poi va di nuovo in Ucraina, e se finalmente ti danno il decreto devi ritornare in Italia. Ecco, questo devo dirlo per onestà, questo è tutto un sottobosco che avviene al di fuori di tutte le responsabilità dell'associazione che va aiutata. Signor Nicoletti, è un sottobosco non conosciuto. Ecco, questo è importante. La sigla ci ferma, però quello, il motivo per cui l'argomento su cui ci siamo lasciati ci imporrà di tornare nello specifico su questo problema con parte degli ospiti che abbiamo avuto, ma con un taglio più specifico, più mirato a questo particolare sottobosco di cui abbiamo avuto soltanto un accenno questa mattina. Alla prossima.